Di Anthelme Brillat-Savarin rimangono il nome di un dolce soffice licoroso cucinato in sua memoria, alcuni scritti giuridici che pochi hanno il coraggio di leggere, e un'opera davvero inconsueta, meritevole invece di tutta la nostra attenzione e considerazione, che è La fisiologia del gusto, ovvero Le meditazioni di gastronomia trascendente, opera che uscì anonima perché la sapida leggerezza del letterato non infastidisse la seriosità del magistrato, diciamo così, uscì nel 1825, giusto un anno prima che morisse. In questa fisiologia del gusto viene data al brodo l'importanza che merita. Nel capitolo dedicato ai vari magistiri corroboranti si fornisce perfino una complicatissima ricetta grazie alla quale lui personalmente sembra che salvò la vita di un conoscente condotto ormai ad un passo dalla tomba dai propri stravizi sessuali, mentre altrove si citano casi di brodi che hanno sorretto prodi militari che dovevano viaggiare a cavallo 12 giorni, 12 notti, eccetera, trovando nel brodo l'alimento ideale per il proprio sostegno fisico e morale. Le virtù del brodo, tuttavia, per Brillat-Savarin, scaturiscono da un preciso impianto teoretico che 172 anni dopo ci pone un problema destinato a rimanere irrisolvibile. Il tema del brodo, infatti, è introdotto dall'elogio rivolto alla chimica del suo tempo, che fortunatamente avrebbe scoperto l'osmazoma, ovvero quella sostanza eminentemente saporosa della carne che sarebbe solubile nell'acqua fredda. Non a caso, ancora oggi è prescritta, no? L'acqua fredda iniziale per ottenere il dono finale di un buon brodo da un buon pezzo di carne. Il colore stesso della carne lo dovremmo ad una condensazione dell'osmazoma. E va da sé che nel tentativo di capire che cosa sia questa sostanza io mi sia rivolto anche alla difficile quanto incerta arte dell'etimologia, constatando poi che osmi in greco stava per odore e che zomos stava per brodo, e dunque ritrovandomi al punto di partenza. Parlando di osmazoma, Brillat-Savarin avrebbe potuto riferirsi con un'altra parola all'albumina o alle proteine in genere, considerando anche che il termine di proteina, nel senso di primo costituente della materia vivente, venne coniato da Mulder nel 1838 e che quindi lui non l'aveva proprio a disposizione. Ma leggendo attentamente la sua teoria ci si accorge che le cose poi non quadrerebbero. Infatti Brillat-Savarin esclude che l'osmazoma sia contenuto nell'agnello, nel porcellino di latte, nel pollo e nella parte bianca dei volatili grandi, tutti contenitori ovviamente ben capaci di proteine. Così ci si ritrova con un designante osmazoma integralmente deprivato di un suo designato. La cosa non è infrequente nella storia della scienza e spesso ci lascia nell'impossibilità di comprendere poi come sono andate le cose, il perché e il per come di certe opzioni e di certe pratiche. In questo caso ci sparisce da sotto il naso il fondamento stesso del buon brodo. Buon brodo che tuttavia con altri fondamenti mantiene e rafforza il proprio substrato ideologico tutt'oggi. Ce ne siamo resi conto in questi giorni tristemente nella triste americanevole ma non soltanto americanevole vicenda del suicidio collettivo dei 39 membri della setta della Fonte Suprema. A quanto riferiscono le cronache, le ultime ore prima di consegnarsi alla morte per passare a miglior vita a bordo di un UFO che li attendeva nascosto nella coda della cometa di Hale-Bopp, secondo un copione che mi sembra più o meno si ispirasse al film Cocoon, i fedeli del signor Applewhite sembra che, oltre che rafforzarsi nell'astinenza sessuale, anche con metodi, come si è visto, drasticissimi, seguissero con passione i telefilm della serie X-File e Star Trek. Star Trek a conferma del fatto che per il successo di una religione non occorre poi un granché. Senza far mancare, tuttavia, il topos canonico narrativo della cena conclusiva. Sembra infatti che tutti e 39 poveretti abbiano pranzato tutti assieme in un ristorante a San Diego. I camerieri se li ricordavano bene, per via delle ordinazioni, tutte rigorosamente uguali e tutte alla prima portata, brodo per tutti. E che qualcosa non andasse per il verso giusto lo si poteva capire già da lì, perfino dopo l'avvento del dado di Justus von Liebig, ricostituente per il risanato o viatico per l'insanabile che sia, se non è lo smazzoma qualcosa in più di storia, di valori, di magico, di mistico, qualcosa in più nel brodo c'è ancora. È nato il 1 aprile del 1755, giusto in periodo, va ricordato, Antoine Brillat Savarin e ambì al quieto vivere, ma ciò nonostante, o forse proprio a cagione di ciò, ebbe a passare i suoi guai. Era un avvocato, fu eletto rappresentante del Terzo Stato e più tardi nell'Assemblea Costituente votò l'istituzione della giuria e l'abolizione della pena di morte. Era un moderato e come tale piacque ai suoi concittadini di Belley, che lo vollero anche presidente del Tribunale Civile. Tuttavia questa sua moderazione non gli suscitò le simpatie dei rivoluzionari, tanto che la consapevolezza di ciò finì con il suggerirgli di cambiare aria. Poi tornò in Francia nel 96 e poté proseguire la sua carriera di magistrato. Il 21 gennaio del 1826 malauguratamente si ricordò dell'anniversario della morte di Luigi XVI. Lui non era affatto aristocratico, nobile, niente, faceva anche un freddo cane, faceva, ma pensò di unirsi ugualmente al manipolo di nobili che partecipavano all'ufficio funebre nell'abbazia di San Dionigi. La sua fede nella propria morigeratezza glielo imponeva. Mal gliene incolse a lui e ad altri due suoi compagni di sventura. Una polmonite li fulminò pochi giorni dopo, il che, sia detto per la buona pace dei 39 adepti della Fonte Suprema, dimostra che per andarsene da questo mondo qualsiasi scusa poi è buona.